Allora, il tema di questo incontro è gestione della comunicazione nell'equipe ad alta intensità, immagine emotiva. Sì. Scusate, ho la voce che non. Vengo da un'influenza veramente no, brutta, che era 10 anni che non ne prendevo, ho fatto un ripasso, quindi sono. In primo luogo volevo esprimere ciò che io penso di ciò che voi fate come infermiere, perché ho avuto 2 occasioni di andare in ospedale, prima per un incidente su un campo da tennis, con cui ho avuto un trauma cranico, quindi sono stato 20 giorni, 22, e poi un altro recentemente, una piccola operazione. E devo dire che credo che voi sappiate che cosa rappresentare per un paziente, cioè qualcosa di grande. Non siete solo delle persone che compiono dei servizi, ma siete un punto di riferimento fondamentale. Il clima che certi infermieri riescono a generare intorno a sé è di enorme importanza, perché favorisce veramente il processo di guarigione. Io ricordo proprio delle infermiere che erano degli angeli, solo presenza loro. Il fatto che sapevo che era nell'altra stanza, che poi arrivavano, faceva ricordare ciò che diceva Balint a proposito del medico. Il medico è il primo farmaco, ma potrei aggiungere che il secondo farmaco è l'infermiere. E perché il primo farmaco, il secondo farmaco? Ma perché è un fatto ormai molto noto che le nostre capacità di recupero, da qualunque malattia sia, incidente, dipende dallo stato in cui siamo, stato emozionale. Lo stato emozionale incide in modo enorme. Se siamo sotto stress, come malati, sprechiamo energia, buttiamo via molta energia che non è più a disposizione dei sistemi di recupero. Quindi da lì l'enorme importanza di creare un clima in cui la persona che è ricoverata, magari anche sotto urgenza, un clima nel quale questa persona sente di essere in mani sicure, non solo per la competenza, questo è ovviamente essenziale, ma non meno essenziale una competenza umana di rapporto, capacità di entrare in contatto con l'altro. Ricordo che quando sono uscito da una sala operatoria che aveva fatto un'operazione a cistifelia recentemente, avevo così male, ma un male terribile, che non sapevo proprio da fare. Ho allungato una mano e ho incontrato un altro paziente che fortunatamente me l'ha tenuta. E ho visto in questo una persona molto importante. Mi è servito tanto. In quel momento ero veramente uno stress altissimo, questo mi è servito. Anche in sala operatoria, devo dire. Quando entravo, io non sono certo una persona, io sono una persona che è spaventata facilmente da queste cose. Non ho studiato medicina per questo, ma forse. E lì il modo con cui il chirurgo mi si è avvicinato, il modo con cui l'anestesista, sono stati decisivi per sentirmi al sicuro. Ora, questi piccoli atti che nel mondo della tecnologia di oggi tendono a essere tutto sommato abbastanza sottovalutati, sono invece decisivi ai fini della guarigione. Vi racconto una breve storia. C'era una clinica di New York e sono state ricoverate 2 bambine premature, gemelle. Le hanno messe in 2 incubatrici, come è da protocollo, una in una e una nell'altra. E una delle due stava crescendo bene. L'altra a un certo punto cominciò a star male, non si capiva cosa aveva e stava decisamente andando verso la sua fine. Durante una notte un'infermiera si lasciò prendere dal suo naturale istinto materno e violò il protocollo. Prese la seconda bambina, la mise nella stessa incubatrice dell'altra, mise una vicino all'altra. Quella che stava bene e quella che non stava bene. E dopo un po' cosa accade? Che queste due si avvicinarono, la bambina che stava bene si cominciò ad avvicinarsi a quella che non stava bene, e dopo un po' avvenne il viraggio. Quella che non stava bene, pian pianino, cominciò a riprendersi. Vi racconto un altro episodio. Un ragazzo giovane, un atleta, ebbe un terribile incidente, si ritrovò quindi a letto, in ospedale, senza potersi più muovere, col polmone artificiale, senza più udito. Non poteva muoversi, non poteva fare nulla. L'unica cosa che poteva fare era osservare, guardare. E in quel periodo era primavera e fuori dalla finestra c'erano degli alberi in fiore. E lui si consolava con questa vista degli alberi. Ma una mattina si svegliò, aprì gli occhi e non vide più niente. Quindi aveva perso la vista, l'udito e la motricità. Una situazione terribile. Fu preso dall'ispirazione assoluta finché non si ricordò che qualche anno prima avevo fatto pratica di meditazione e quindi dell'attenzione al respiro. Così questo ragazzo cominciò a concentrarsi sul suo respiro. Primi 10 minuti non accadde assolutamente niente. Naturalmente la respirazione avveniva in conseguenza del polmone artificiale. Primi 10 minuti nulla, 20 minuti niente, 30 minuti niente, sempre uguale. Ma al 40° minuto cominciò ad avvertire che qualcosa cambiava e pian piano avvertì, pensate, in quella condizione un senso di gioia. Un senso di gioia, senza cause, senza condizioni, semplicemente perché era vivo. E da quel momento, da quando cominciò ad avvertire quel senso di gioia e quindi poi praticò più volte la respirazione consapevole, questo giovane uomo pian piano cominciò a riprendersi. Vi dico un terzo episodio. C'era una nostra amica, un giorno andò a casa di suoi amici, una coppia di amici che avevano un bambino molto piccolo con problemi seri, non riusciva a addormentarsi, aveva difficoltà, urlava sempre. E a un certo punto le venne in mente di prenderlo in braccio lei e di praticare la respirazione consapevole. Anche lei era una praticante di meditazione. Questo bambino continuò a urlare per un po' e poi si calmò. Ma proprio si calmò. Semplicemente perché era tenuto in braccio da una signora che non conosceva, ma che era in uno stato di quiete interiore. Vi ho parlato di questi episodi, e potrei parlare di tanti altri, per dire quanto è importante, specialmente in situazioni di stress estremo, saper accedere a questa risorsa che tutti noi abbiamo, come componente di esseri umani ce l'abbiamo tutti, ma è una componente che come altre va allenata. Cioè tutti noi siamo predisposti ad apprendere il linguaggio, ma se fossimo esposti in un luogo dove nessuno parla, non parleremmo. E purtroppo è così anche per questa qualità di ritrovare un punto di quiete interiore. Se noi siamo elevati in luoghi dove nessuno pratica questo, non lo ritroviamo. E così oggi pensiamo di essere, abbiamo una concezione di esseri umani un po' distorta rispetto a quelle che sono le nostre vere potenzialità, che fortunatamente sono ormai studiate in ogni luogo del mondo. E oggi abbiamo la fortuna di avere a disposizione una ricchezza infinita di conoscenze accessibili a tutti, anche solo su internet, in cui possiamo spaziare dalle pratiche più antiche alle pratiche più moderne, in cui possiamo imparare a diventare veramente direttori d'orchestra di noi stessi, cioè leader di noi stessi, maestri di noi stessi. Ora questo è l'augurio che molti di noi si fanno ormai, dovrebbero essere pratiche che vengono insegnate, diciamo, a partire dalla prima elementare, non dopo. E soprattutto dovrebbero essere conosciute bene dalle maestre d'asilo, dai genitori, da tutti. Perché molti bambini iperattivi, oggi gli si danno dei farmaci, ci si chiede, perché ormai cosa vuoi chiederti, come si fa? Siamo in un mondo di agitazione perenne, i bambini si agitano, non hanno spazio per muoversi, ma le pratiche di meditazione, quelle che volete, ce ne infinite, basta che arrivino al risultato di creare quello stato di quiete profonda. Guardate, c'è un movimento dello spirito, l'esicasmo è una delle varie vie spirituali dei monaci orientali, che dice ci sono tre passaggi, ve ne sono questi. Il primo è fugge, ritirati dal mondo. Il secondo, tace, smetti di chiacchierare. E il terzo, quiesce, stai quieto. Fugge non vuol dire che scappi via, scappi dall'agitazione del mondo, ti ritiri un attimo, trovi un momento di raccoglimento e soltanto così poi puoi trovare la quiete dentro di te che c'è sempre, perché c'è un luogo dentro di noi che è assolutamente inquiete sempre, qualunque cosa accada. Scoprire questo luogo è la più grande benedizione che potete incontrare nella vita. A me capitò anni fa, grazie a un incontro con un ragazzo che mi insegnò la pratica dello shiatsu e poi della meditazione, era più giovane di me ma aveva seguito un maestro molto bravo, e ricordo una domenica in cui mi trovavo in condizioni, normalmente sarei entrato in stress, e mi ricordo che mi misi giù un tappetino per terra, mi misi, praticai 10 minuti e nonostante che la situazione era altamente stressante, potei trovare quel luogo di rifugio nella pace e nella serenità che ritengo sia uno dei doni più grandi che uno possa ricevere nella vita. Attenzione, non è il dono che riceviamo da qualcuno, semplicemente qualcuno ci mostra come fare a entrare dentro quel luogo che c'è già dentro di noi. I maestri ci dicono che c'è sempre quel luogo lì, noi siamo un pelo, sempre un punto dall'illuminazione, solamente che c'è una nuvola di mezzo e non ce lo fa vedere. Proprio perché siamo in un momento di crisi, l'avete sottolineato giustamente, il momento di crisi, crisi è ben noto, in lingua cinese significa due cose, da una parte significa pericolo, dall'altra significa opportunità. È proprio nei momenti di crisi dove si possono tirare fuori le migliori risorse, è proprio nei momenti di crisi dove dobbiamo andare a cercare quali sono i gioielli interni di cui noi tutti disponiamo. Un modo per rappresentarsi gli esseri umani è questo: un essere che è seduto su una cassa di diamanti e chiede l'elemosina, e che non sa che sta su una cassa di diamanti. Cos'è sta cassa di diamanti? Ma è l'interiorità, è quel luogo profondo, quello che i mistici che definiscono il fondo dell'anima, il luogo più interiore di noi, il luogo che Sant'Agostino invocava quando diceva nelle confessioni «Cor meum inquietum est», non qua a sequenza delle circostanze, no, le circostanze cambiano. «Cor meum inquietum est, donec intere quiescat», finché non riposa nel divino. Ma il divino cos'è? Oggi che sono caduti fortunatamente molti miti, molte credenze che in genere poi creano problemi tra le persone, abbiamo avuto infinite guerre di religione, non è il caso, ce ne sono ancora adesso, non è il caso di andare avanti su queste strade. Le vie sono infinite, ma un punto che accomuna tutte le mistiche di tutto il mondo è questo: dentro di noi c'è un punto di forza incredibile. Quella è la base sicura, la vera base sicura. Allora pensate che dono è per una persona che fa la vostra professione, per se stesso scoprire questo luogo. Allora sa che se anche c'è una persona morente e non può farci nulla, può stare assolutamente in pace in quel momento lì, e quindi offrire al morente il più grande regalo che possa ricevere, cioè avere una persona empatica accanto, ma nello stesso tempo serena, con quel fondo di serenità e di quiete di cui tutti abbiamo bisogno per affrontare le difficoltà della vita. Questo vale, credo, in futuro, spero, mi auguro di poterlo vedere, presto realizzarsi, che queste buone notizie che vengono dal mondo della ricerca, dal mondo delle neuroscienze, dal mondo della meditazione, ormai le cose sono ben note, solamente che siamo molto indietro nella pratica, le nostre scuole sono rimaste indietro di centinaia di anni, le nostre università sono obsolete da morire. Ma noi possiamo oggi fare parecchio in questa direzione qua. Oggi è un periodo favorevole a scoprire che filosofia, ciò che c'è di buono nelle religioni, la spiritualità, la filosofia della spiritualità, la ricerca sulla salute. E le altre discipline possono tutte prendersi per mano. Guardate, grandi autori come Bateson, ma molti altri, uno degli autori, un filosofo dei più importanti italiani, che è Emanuele Severino, dice proprio questo. Il fatto che oggi i nostri modi di studiare, di approcciarci alla conoscenza, siano così settoriali, così separati, così specializzati, da una parte è una buona cosa, perché se volete capire qualcosa bisogna diventare anche specialisti, ma se lo specialismo rimane specialismo e perde la visione d'insieme, allora con questo si perde l'umanità. Come dice Raymond Panikkar, un grande filosofo scomparso da un anno circa, Raymond Panikkar è tra l'altro uno dei più grandi autori del dialogo interreligioso, diceva: la frammentazione della conoscenza, pensate bene, rende frammentato il conoscente, cioè l'uomo. Quindi uno dei problemi fondamentali che l'università dovrà affrontare prima o poi per diventare quello che dice di essere, perché l'università dice universo, verso l'uno, ma oggi non è mica così. Voi andate anche alla facoltà di filosofia e non si studia più quello che ci porta verso l'uno. Pensate che in Germania, fino a un po' di tempo fa, non so ancora adesso, praticamente filosofia era insegnata in tutte le facoltà, si capiva che le scienze filosofiche intese in senso vero, cioè ciò che ci connette all'uno, quindi alla nostra vera natura, sono fondamentali per qualunque professione umana che voglia essere utile all'umanità e non solo una pratica di mercato, perché è chiaro che si può fare qualunque pratica, anche quella sanitaria, come nell'ottica del mercato. Io divento medico per arricchirmi, posso fare quello che voglio, alcuni fanno anche questo, ma in realtà chi sceglie una professione sanitaria di solito almeno un movente umanitario ce l'ha. Bene, oggi abbiamo, e questa è la buona notizia che credo che tutti voi comunque sappiate, ve la ricordo semplicemente, abbiamo la possibilità veramente di disporre di conoscenze come non è mai stato possibile. Una volta c'erano delle conoscenze, ma erano locali, Adesso possiamo confrontare. E vi dico ancora due cose: perché è così importante il tema della quiete interiore? Ma perché vedete, è soltanto nella quiete interiore che veramente si aprono quelle che la mistica chiama i due occhi dell'anima, che sono l'intelletto, intelletto inteso come intelletto attivo, e il cuore. Ma l'intelletto attivo cosa serve? Beh, l'intelletto attivo è fondamentalmente l'intelletto che produce intuizione, cioè la comprensione chiara e distinta di ciò che sta succedendo, cioè una forma di intelligenza particolarmente acuta. E dall'altra, questa forma di intelligenza non può essere disgiunta dall'apertura del cuore, quindi dall'apertura all'altro, all'empatia, alla compassione, alla gratitudine, a tutte le qualità dell'essere. Ora, le neuroscienze, per esempio tutti gli studi che sono stati fatti sul cervello e del cuore, che sono straordinari, ci indicano come queste pratiche della gratitudine consentono di fare in modo che il nostro centro del cuore, che è anche un centro neurologico, non è solo un centro di pompaggio del sangue, diventi il nostro direttore d'orchestra, e cioè attraverso un centro del cuore aperto in cui il ritmo cardiaco diventa molto regolare, allora tutti i sistemi interiori entrano in risonanza col cuore e quindi c'è maggiore efficienza nel sistema e maggiore intelligenza. Faccio un piccolo scarto a lato per parlare di esperienze che viviamo tutti i giorni, almeno nella nostra attività. Ci sono delle pratiche psicologiche oggi abbastanza innovative, in cui per esempio le costellazioni fatte in un certo modo possono essere utili, in cui si vede che le persone che entrano in stato di profonda concentrazione, di quiete, riescono a entrare in empatia così profonda nei confronti di altre persone da comprendere delle cose incredibilmente profonde. Ricordo l'altro giorno che c'era, appunto, proprio perché mi viene in mente adesso, una persona che stava rappresentando la madre di un ragazzo, e a un certo punto disse una frase a questo ragazzo che fu così potente che questo ragazzo entrò in un pianto infinito e disperato, tirò fuori tutto il dolore che aveva e poi si avvicinò alla madre, l'abbracciò e uscì da un dolore dovuto all'odio nei confronti della madre che l'aveva accompagnato praticamente da quando era bambino. Ora, quindi vi sto dicendo che noi disponiamo di potenzialità umane, anche intellettuali, cioè proprio di comprensione, che sono molto superiori a quelle che normalmente crediamo. Noi tutti abbiamo fatto gli studi della scuola, sappiamo benissimo che dobbiamo andare a imparare quello che c'è scritto su questo foglio e poi andarla a ripetere a questa signora, perché ce lo chiede, o quel signore lì ce lo chiede. E poi di quello, questa roba qua, facilmente ne dimentichiamo quasi tutto. Almeno questo è accaduto a me e alle persone che ho conosciuto fino ad oggi. Poi magari qui invece siete tutti diversi, vi ricordate tutto. Ma soprattutto molte delle cose che abbiamo studiato erano cose che erano esterne a noi. C'erano cose che si studiano, come si studia la geografia, come si studia la storia, va bene. Ma questo tipo di studio, quanto ci cambia dentro? In che modo questa diventa una conoscenza incarnata che fa sì che i miei comportamenti nella vita cambino, diventi un uomo migliore? Perché questo è il compito dell'educazione. Il compito dell'educazione è quello di tirar fuori il meglio che c'è dentro un essere umano. E se andiamo a guardare, c'è tanto da tirar fuori, perché gli esseri umani sono esseri straordinari. Pensate che Dostoevskij, che ha conosciuto il peggio delinquente della Terra, ha detto: non ne ho visto uno in cui non ci fosse ancora una luce presente, pronta eventualmente ad attivarsi se trovare il contesto giusto. Quindi abbiamo un potenziale che è molto bene, che noi, di cui dobbiamo diventare consapevoli. E so, per quello che so di io, che cioè molto poco, che mi sembra che ancora nelle vostre facoltà, facoltà di medicina, non siano pasti centrali. La medicina è diventata soprattutto tecnica. Il rapporto umano, ben a note nelle conseguenze che ha sulla salute, tutto sommato non è al centro di tutto. Mentre si può immaginare un futuro, una medicina in cui ci saranno molto meno farmaci, molte meno ricoveri e ci sarà molta più umanità, cioè molta più comprensione dei moventi profondi delle relazioni umane. Cito un caso molto interessante di una clinica che è stata aperta in Stati Uniti di un certo Dan Ornish, che è un ricercatore, ha creato una clinica per persone che avevano problemi, disturbi di cuore. E in questa clinica fanno soprattutto che cosa? Gruppi d'incontro. Cioè le persone imparano a dare voce alle loro tensioni, preoccupazioni, emozioni, seguendo ciò che dice Shakespeare, cioè date parole al vostro dolore affinché il vostro cuore non si spezzi. Allora, una delle prime cose che un medico, un infermiere dovrebbe sempre fare è consentire, tanto usare un linguaggio, e qui ha a che fare, che sia molto attento a elicitare nella persona delle risorse e mai delle paure. Per esempio dire a una persona: oh, oggi ti vedo proprio male, porca miseria, cosa hai fatto? Questo non aiuta di solito, no? Come ti vedo giù, ma lo sa che cosa l'aspetta? Queste non sono cose utili. Adesso le faccio un'iniezione, farà un male che vedrà. Non sono cose utili. Ecco, ma invece dire: cosa farà quest'estate, quando potrà andrà su in montagna, andrà a fare questo? Lo porta l'attenzione a qualche altra parte. Ci sono persone naturalmente dotate di queste capacità, di spostare l'attenzione della persona da ciò che c'è qui, che va bene, c'è, non è più di tanto, in un luogo dove questa persona potrà vivere in futuro e quindi si sposta già nel luogo di risorsa. Questo è un'arte del linguaggio, l'arte della parola. Pensate, il linguaggio, si dice, il linguaggio serve a comunicare delle cose. Sì, ma attenzione, perché potremmo anche dire che il linguaggio, gran parte del linguaggio, specialmente nelle situazioni sanitarie, è performativo, cioè è azione, cioè produce delle conseguenze forti. Il linguaggio può essere una carezza, ma può essere anche un pugno sul naso. Allora, ci sono certi medici che sono dei disgraziati, cioè non hanno ben chiaro cosa vuol dire parlare ai pazienti. Ce ne sono altri che sono degli angeli. Molti infermieri sanno come usare il linguaggio, magari perché è una naturale loro tendenza a volere il bene delle persone, ma è chiaro che saperne qualcosa di più e sapere come il linguaggio può favorire dei processi mentali e quindi fisici, perché tutto ciò che è pensiero poi diventa corpo, oggi lo sappiamo, c'è mica che c'è il pensiero. Pensiero è corpo. Ogni cosa che noi pensiamo ha a che fare col corpo, quindi ha a che fare con la salute. Infatti malattia, si dice in francese, viene da maledire, vuol dire dire male, vuol dire parlare male, vuol dire usare male la parola. Insomma, se io uso male la parola, io maledico. Dico male, io senza saperlo voglio il male e produco il male. Quindi di lì l'importanza di usare la parola per bene dire cose che fanno bene. Questa è un'arte che credo che molti di voi conoscano e vi invito a dargli veramente l'importanza che ha, cioè enorme, ha la stessa importanza dei farmaci. Poi voi sapete meglio di me certamente quanto l'effetto placebo incida. Ora, è enorme l'effetto placebo, ma proprio gigantesco. Quindi pensate, lo stesso farmaco dato da una persona che lo accompagna una certa parola vale 10 volte rispetto a un'altra. Quindi tutti questi sono, credo che saranno il futuro della medicina. Bene, vi dicevo, questa clinica americana, appunto, vengono ricoverati, vengono in gruppi di incontro persone che dovrebbero essere poi sottoposte a operazioni cardiache. Bene, molti di loro le possono evitare. Perché? Perché guarisco. Di cosa? Di una malattia cardiaca, sì. Come? Semplicemente attraverso la possibilità di esprimere in un contesto di grande accoglienza, protezione e benevolenza le loro sofferenze, ciò che loro hanno pensato. Quindi attraverso questa condivisione. E pensate che è così vera la cosa che vi ho detto che le assicurazioni americane, che non sono note per la loro benevolenza, no? Sapete che non sono enti di beneficenza, sono disposte a finanziare queste cliniche, a proprio a finanziare questi corsi, proprio perché fa risparmiare le assicurazioni centinaia di migliaia di dollari nelle operazioni. E queste si trovano su internet, sono tutte cose che trovate. Bene, io non so quanto tempo ho a disposizione, non ho la minima idea. Ancora dici? Va benissimo, ok. Va bene, allora penso che potremmo passare a qualcosa di pratico se volete fare qualcosa. Cosa dici, Carolina? Come vi sentite? Volete fare qualcosa di che possa rimanervi come esperienza? Perché c'è qualcuno di voi che pratica la meditazione qua dentro tra voi? No, ok, bene. Qualcun altro che farà pratiche di rilassamento? Bene, terreno vergine, è il migliore. Quindi non avete ideologie, no? Bellissimo. Ecco. Sì. Beh, allora vi apro un capitolo molto interessante. Guardate, è venuto a casa nostra per 2 giorni un insegnante, un praticante di biodinamica cranio-sacrale. Forse qualcuno di voi sa di cosa si tratta. Fa parte della pratica osteopatica. Osteopatia. Va bene, è venuto per confrontarsi con noi, per trovare un punto di contatto. E vi dico cosa consiste la pratica, bruttissimo nome, cranio sacrale, brutta, va bene, ok, però chiamiamola biodinamica, che è un po' meno orribile. Bene, insomma, volete sapere in cosa consiste questa terapia? Bene, così. La persona, il cliente, si sdraia su un lettino e l'altro cosa fa? A un certo punto si mette una mano così e magari un'altra qua. Fa questo. Poi può darsi che gli metta una mano qua dietro. Poi la persona poi magari gli chiede, adesso come ti senti, cosa sai? E magari a questo vengono delle immagini. Allora parla un attimo, gli dice, ma mi viene in mente questo, ok, va bene. La pratica consiste essenzialmente in un contatto fisico. Nessuna manipolazione. Ma che cos'è questo contatto fisico? Io ho fatto 2 seminari di cranio sacrale con di biodinamica con Mike Boxall, che è un insegnante che gira il mondo, è molto conosciuto. E lui dice che tutto quello che fa è questo. Sì, però prima di fare questo cosa fa? E questo è il punto interessante. Allora, questo insegnante di cranio sacrale mi racconta che prima di accogliere un cliente prepara lo spazio, apre lo spazio, cioè sa che verrà una persona che si metterà su questo lettino e quindi lui si prepara con la sua consapevolezza ad accoglierlo. Quindi magari fa un giro intorno al lettino, spargi un po' di profumo, di incenso, così, e si raccoglie in meditazione per 10 minuti, in cui fa questa pratica, orientamento e sincronizzazione. Cos'è l'orientamento? Bene, tutti noi abbiamo bisogno di un orientamento nello spazio, è noto, quindi viviamo nello spazio e nel tempo, ma molti di noi non si accorgono di averlo perso l'orientamento, cioè di non avere una ottima coscienza dell'orientamento. Allora questa pratica consiste nel diventare consapevoli di tutta la superficie del corpo, tutta. Quindi fare uno scanner di tutto il corpo, fino ad avere una immagine tridimensionale, un sentire tridimensionale. Poi, avvertire dentro di sé l'asse mediano, cioè quello lo chiamano l'asse sensorio, dove effettivamente noi percepiamo le più importanti sensazioni e le nostre emozioni. Quando sentiamo le emozioni, le sentiamo qua, o qua, o qua. Quindi percepire l'asse sensorio, orientarlo, cosa significa? Che mi accorgo dov'è il basso, verso la terra, ma mi rendo conto anche di dov'è l'alto, dov'è il cielo, e quindi allineo questo asse sensorio tra la terra e il cielo. Già solo questo fatto cambia la percezione del mondo, ma poi non basta. L'orientamento ha bisogno anche dell'orizzonte. Quindi i nostri occhi tendono a osservare il mondo così. Allora noi dobbiamo essere consapevoli che c'è un orizzonte, che c'è un cielo e che c'è una terra. E che noi stiamo al mondo nella consapevolezza se siamo radicati alla terra. Quindi abbiamo la consapevolezza del contatto con la terra e della nostra direzione, terra-cielo, e della linea dell'orizzonte. Questo è il fenomeno dell'orientamento, ed è un fenomeno totalmente interno, interiore. Poi c'è il fenomeno, l'altro aspetto, della sincronizzazione. Noi abbiamo dei bioritmi, tanti, alcuni ben noti, a respirazione. Adesso ci lavoriamo fra 2 minuti. Beh, tutti noi sappiamo che la nostra respirazione è uno specchio piuttosto fedele dello stato in cui siamo. Se siamo agitati, la respirazione lo rivela. Se siamo rilassati, la respirazione lo rivela. Quando siamo rilassati, abbiamo una respirazione tendenzialmente addominale, perché siamo costruiti per avere la respirazione addominale. C'è un solo muscolo che fa così e funziona senza sforzo. Quando invece usiamo la respirazione toracica, ci sono 150 muscoli che entrano in funzione, quindi si fa molto più fatica. Già solo il tema della respirazione, pensate in Oriente, quanto tempo hanno dedicato i maestri al lavoro sulla respirazione, al pranayama. E su questo, nella nostra filosofia, invece si studia filosofia all'università e non ci si occupa di respiro. È ben strano. In Oriente questo sembrerebbe impossibile, perché se tu non hai una respirazione che ti porti in stato di quiete, la tua percezione del mondo è distorta. Da cosa? Dalla tua agitazione. Noi vediamo il mondo in base ai filtri che abbiamo. Se siamo agitati, vediamo il mondo in una certa maniera. Se siamo in serenità e in quiete, in stato di sicurezza, vediamo tutto diverso. Allora, sincronizzarsi col respiro vuol dire diventare consapevoli del respiro. E vi ho detto prima di come quell'atleta ha potuto recuperare, nonostante la situazione gravissima in cui era, uno stato di quiete e di gioia interiore pur in quella situazione assolutamente disperata. Quindi se lo può fare un giovane che si trova paralizzato, a ritrovare la quiete potremo farlo noi, in condizioni ordinarie. Bene, la sincronizzazione col respiro, poi col battito cardiaco, e poi nella biodinamica si sono scoperti altri movimenti della vita. Si è scoperto che dentro il corpo, e questa la medicina ancora non ne tiene conto, esiste un movimento che viene detto anche marea, ce ne sono tre tipi, marea breve, marea media, marea lunga. La marea lunga è un movimento che si impara a percepire con un po' di allenamento e che dura circa 80 e 120 secondi, si percepisce proprio nel corpo della persona, un movimento di questo tipo. 120 secondi. Bene, quando si comincia a percepire questi flussi qua di marea, si entra in contatto con qualcosa di sacro, cioè è lì l'origine della vita, è da lì dove l'intelligenza, la grande intelligenza che è implicita nella vita, può dispiegare i suoi effetti. E allora vi completo il discorso sulla pratica biodinamica. La pratica biodinamica viene svolta da chi in posizione di orientamento e sincronizzazione si sintonizza col cliente, entra in contatto col cliente, ma le mani che entrano in contatto sono mani di consapevolezza che hanno la loro radice in un cuore aperto. Le mani, tra l'altro, sapete, in un feto sono vicine al cuore, sono proprio vicine al centro del cuore. Le mani sono, in certo senso, possono essere considerate un prolungamento del centro del cuore. Quindi pensate l'importanza di un contatto che provenga da un cuore aperto e orientato, in stato di quiete. Ebbene, che cosa succede? Attraverso la biodinamica, i traumi che abbiamo vissuto durante l'infanzia diventano poi delle zone del nostro corpo che sono un po' separate dalle altre. L'energia vitale non fluisce come nelle altre. Allora attraverso questo contatto, questo ascolto profondo, queste aree traumatizzate vengono riconosciute, viste e poste in situazione di quiete. Quello che fa una buona madre con un neonato, quando il neonato è agitato, la neonata vede il neonato agitato, riconosce, entra in empatia, ma nel fondo mantiene calma e serenità. Ed è questa calma di cui il bambino ha bisogno. Quindi essere visto, riconosciuto, il malato è come un bambino per certi aspetti, visto e riconosciuto nelle sue paure, ma non da una persona spaventata, ma da una persona che vive in uno stato di quiete. Pensate, questo è un grandissimo regalo che può fare qualunque clinico, qualunque persona che si dedica a relazioni d'aiuto. La biodinamica si può fare non solo con le mani, ma anche semplicemente a distanza, con le parole, semplicemente col contatto oculare, e succedono delle cose che sono importantissime. Io credo che nel vostro futuro, siete tutti giovani, incontrerete sicuramente queste pratiche e probabilmente alcuni di voi si innamoreranno, cambieranno la vostra vita, scoprirete come cambiano le vostre relazioni interpersonali, come diventano più profonde, come veramente l'apertura del centro del cuore vi può far vivere una vita molto piena, non più preda di agitazioni come purtroppo oggi c'è la tendenza a diffondere queste agitazioni ovunque. Bene, prima proprio di concludere vi direi, facciamo una piccola pratica, una di quelle più semplici che esistano. Potete collegare, sentite il vostro respiro, e poi magari collegare. No, facciamo così, mettete una mano sul centro del cuore, la destra sul centro del cuore, così, e un'altra sul plesso solare. Immaginate che sono le mani di una madre veramente amorevole, che ascolta il corpo del suo bambino, che sta respirando. Mani amorevoli che ascoltano un corpo che respira. Nessuna aspettativa. Nessun obiettivo se non quello dell'ascolto in stato di benevolenza. mani entrano in contatto sempre più profondo, l'ascolto si fa più profondo. Attraverso le mani potete ascoltare il vostro respiro. Mentre i muscoli delle spalle cominciano a rilassarsi. E trovate una posizione che vi fa sentire sempre più a vostro agio. In fondo le vostre mani sono come prolungamenti del vostro io che vuole entrare in contatto con le vostre parti più intime, parti più emotive. Così anche i muscoli delle braccia si rilassano di più, e i muscoli delle gambe fino ai piedi. E poi potete concentrare la vostra attenzione sul suono del respiro, l'aria che entra e che esce dalle narici. È un suono ritmico che richiama qualcosa che conoscete molto bene, il ritmo delle onde del mare, da cui la vita poi proviene. È un ritmo iscritto nelle nostre cellule. E vi potete lasciar cullare da questo ritmo. Che via via, prima o poi, si fa più calmo, rilassato, profondo. E allora anche i muscoli del collo cominciano a rilassarsi, i muscoli della mandibola, i muscoli intorno agli occhi. Muscoli della fronte. E l'esperienza prima o poi può condurre a uno stato di quiete. Possono arrivare intuizioni anche molto importanti, dove la nostra visione si fa più limpida, più lucida, più distaccata. Okay. Bene, adesso credo che il tempo sia scaduto, adesso possiamo ritornare qua, riaprendo gli occhi. E vi faccio l'augurio di entrare in contatto con pratiche come questa che possono approfondire anche non solo il rapporto con voi stessi, ma il rapporto con le altre persone, in modo che voi quando toccate un'altra persona gli comunicate un senso di pace profonda. Questo è l'augurio che vi faccio. Grazie a tutti.